Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. A tutti voi, cari ascoltatori, un saluto e una benedizione. Eccoci al nostro appuntamento mensile che sosta sulle parole, sulle pagine della Scrittura. Come sapete, stiamo facendo un percorso nel libro degli Atti degli Apostoli, di cui stiamo facendo la lettura continua. Bene, la volta scorsa ci siamo soffermati sulla prima parte del capitolo 13, siamo nel contesto del primo viaggio cosiddetto missionario che vede coinvolti soprattutto Paolo e Barnaba e durante il quale a un certo punto abbiamo visto la volta scorsa che c'è qualcuno che batte in ritirata, il futuro evangelista Marco, sotto il nome di Giovanni Marco nel racconto degli Atti degli Apostoli, quando si accorge che Paolo e Barnaba si stanno addentrando nel territorio pagano, taglia la corda e se ne torna a Gerusalemme. Quindi abbiamo terminato la volta scorsa sullo sfondo di questa scena, mentre Paolo, giunto ad Antiochia di Pisidia, si incontra con la comunità locale. Ecco, prima di riprendere il filo della narrazione, invochiamo insieme il dono dello Spirito Santo su chi parla, perché la parola che viene spezzata possa raggiungere non solo la testa ma anche il cuore di ciascuno di noi, e su chi ascolta, perché questa parola permetta poi di riprendere il percorso di vita quotidiana con uno slancio in più, con una marcia in più. In altre parole, la sottolineatura, l'invocazione che facciamo insieme è di essere entrambi discepoli di quella parola attorno alla quale si realizza l'unico vero magistero, l'unica vera scuola. Nella scuola, mettersi alla scuola della parola di Dio significa mettersi nell'atteggiamento dove nessuno è maestro, ma siamo tutti discepoli che vengono forgiati da una parola altra che ci viene donata, che ci viene regalata. Ecco, su questo sfondo noi iniziamo la nostra lettura e questa sera avremo a che vedere con un brano che non è immediato, non è semplice, perché è praticamente il primo grande discorso che Paolo tiene durante il suo ministero missionario. E voi lo sapete, i discorsi sono sempre dei brani un pochino più difficili rispetto ai racconti di miracolo, agli incontri o alle narrazioni di una parabola o di un episodio, perché sembrano sempre toccare elementi un pochino più astratti. Ecco, cercheremo, almeno cercherò nel mio piccolo, di rendere anche questo discorso di Paolo significativo per noi. Quando Luca negli Atti degli Apostoli presenta dei discorsi, e negli Atti degli Apostoli ce ne sono tanti di discorsi, pensate, ce ne sono almeno 8 tenuti dall'Apostolo Pietro e 8 tenuti dall'Apostolo Paolo. I due Apostoli camminano un pochino paralleli in questa narrazione. Bene, quando Luca descrive, riporta il contenuto di questi discorsi, usa sempre una metodologia ben precisa, dove c'è prima una parte introduttiva, poi mette a fuoco il tema che vuole sviluppare, lo argomenta e tira poi alla fine le sintesi di quello detto. Cioè la scansione del discorso non è casuale, è pensata bene. E quello che viene stilato, narrato, scritto dall'autore sacro è ben pensato, risponde a un obiettivo preciso, che è quello che cercheremo insieme di definire. Ecco, anche nella nostra riflessione su questo testo cercheremo di andare per ordine, vedendo prima di tutto come l'autore sacro inizia, quale aspetto della narrazione predilige, qual è l'argomentazione che porta avanti e come tira le fila del suo discorso. Cominciamo dal primo punto, dal primo aspetto, come il discorso inizia, cioè quale strategia praticamente l'Apostolo Paolo tiene nel momento in cui apre il suo discorso. Iniziamo dal versetto 16 del capitolo 13 degli Atti, invito quanti sono nella possibilità di farlo, di tenere davanti agli occhi il testo. Allora Paolo, alzatosi e fatto segno con la mano, disse: uomini di Israele, e voi che temete Dio, ascoltate. Il Dio di questo popolo Israele scelse i nostri padri ed esaltò il popolo durante la sua dimora in Egitto e con braccio potente li condusse fuori da quella terra. Per circa 40 anni li assistette nel deserto, poi distrusse 7 popoli nella terra di Canaan e diede ad essi in eredità la loro terra. Tutto ciò nello spazio di 450 anni. Quindi diede loro dei giudici fino al profeta Samuel, poi chiesero un re e Dio diede loro Saul, figlio di Chis, della tribù di Beniamino, per 40 anni. Dopo averlo deposto, suscitò loro un altro re, David, e gli rese questa testimonianza. Ho trovato David, il figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, che eseguirà tutti i miei voleri. Dalla sua stirpe, Dio, secondo la promessa, trasse un salvatore per Israele, Gesù. Giovanni, prima della sua venuta, aveva predicato un battesimo di penitenza a tutto il popolo di Israele. E quando Giovanni stava per portare a compimento la sua missione, diceva: «Io non sono ciò che voi pensate che io sia, ma ecco, viene dopo di me uno cui non sono degno di slegare i sandali dai piedi». Ecco, questo è l'inizio del discorso. Prima di tutto, Paolo si rivolge a 2 tipologie di persone, agli uomini di Israele, quindi praticamente ai giudei osservanti, e a voi che temete Dio, e ai timorati di Dio. I timorati di Dio, sappiamo, erano dei pagani che si affacciavano al mondo ebraico, cioè erano dei pagani che ancora non avevano ricevuto la circoncisione, ma che osservavano alcune clausole della legge. Quindi Paolo si rivolge nel suo primo discorso ai giudei da un lato e ai pagani dall'altro, ai pagani che hanno una certa sensibilità nel cuore. A queste persone, a queste 2 categorie di persone, Paolo si trova ad annunciare Gesù. Come, che via predilige Paolo per annunciare Gesù? Ripercorre la storia della salvezza e la sintetizza in 8 movimenti. Se voi rileggete questi versetti, il versetto dal 16 fino al versetto 25, noterete che Paolo scandisce in 8 verbi l'azione di Dio. Dio prima sceglie, poi esalta il popolo nel periodo di Egitto, poi lo libera, poi lo assiste o lo nutre, dipende dalle traduzioni, distrugge i popoli nemici, dona loro dei giudici, elegge un re della tribù di Beniamino, Saul, suscita un altro re nella figura di Davide. Bene, questi verbi utilizzati sono 7 verbi che scandiscono la storia sacra, la storia del popolo. A un certo punto di questa narrazione arriva il compimento dalla stirpe di Davide è quello di Gesù. Notiamo subito, fin dall'apertura del discorso, che Paolo vuole da un lato mettersi in sintonia con la storia ebraica, per cui tutti gli elementi che lui suggerisce sono tutti elementi che appartengono, che il pio ebreo conosce a menadito, dall'altra parte però scarta quegli elementi che fanno del popolo ebraico l'unico popolo eletto distinto dai pagani, cioè sceglie degli episodi dove il popolo diventa un popolo accogliente, l'episodio ad esempio dei padri, il padre Abramo, Isacco e Giacobbe vengono prima del dono della Torah, quindi prima di ogni qualsiasi osservanza. Il popolo viene esaltato in Egitto addirittura quando aveva perso un pochino la sua identità, dell'arrivo del faraone. Poi strappa questo popolo dalla terra, lo assiste nel deserto, distrugge i popoli nemici, dona loro dei giudici, dona loro Saul e suscita il re Davide. Notate che in tutte queste cose non c'è mai la sottolineatura della legge, non c'è mai la sottolineatura del Tempio, c'è la sottolineatura di figure che sono state poli di unità all'interno del popolo di Israele. Bene, quindi l'introduzione dell'annuncio di Paolo, dove viene appunto sottolineata la figura di Gesù, ha come obiettivo proprio questo, mettere al centro dell'attenzione la figura del Messia come colui che accoglie tutti i popoli. E anche qui la caratteristica numerica dei verbi fa notare che la storia di Israele è una storia compiuta in sé, il numero non a caso è il numero 7, ma da questo compimento nasce un germoglio, il germoglio è Gesù, cioè dal compimento nasce Gesù ed è a Gesù che tutti ora devono un pochino volgere l'attenzione. Penso che questo modo di annunciare il Cristo da parte di San Paolo in un contesto che non è solo un contesto ebraico ma anche un contesto pagano possa essere molto significativo per noi. La prima cosa che Paolo evidenzia quando parla di Gesù non sono le esigenze di carattere etico o morale. Ciò che Paolo sottolinea da parte di Gesù sono tutte le azioni benefiche compiute dal Padre, che trovano il loro compimento nel dono di Gesù. Quindi il primo modo per parlare di Dio è sempre quello di mostrare la sua presenza nella storia, mostrare la sua presenza benevola, scandita proprio da questi verbi, scelse, esaltò, condusse fuori, nutrì, distrusse i popoli nemici, donò, suscitò, fino a trarre un salvatore, questo padre che opera seguendo passo dopo passo la storia del suo popolo e accompagnandola. Ecco, questa è la prima forma di annuncio. Il primo annuncio è sempre un annuncio che sottolinea le opere benefiche di Dio, non le sue esigenze. È dal bene che è possibile costruire qualcosa. Guardate, cari ascoltatori, proprio in questi giorni sto scrivendo delle riflessioni sui primi gesti di misericordia da parte di Dio che troviamo nella Sacra Scrittura, no? E in questi giorni sto meditando sul terzo gesto di misericordia che troviamo nei primi capitoli della Bibbia, che è quello dell'alleanza stipulata con Noè. E c'è quel gesto significativo di Dio, no? Dio che dona al popolo il segno dell'arcobaleno, dicendo: ripongo il mio arco tra le nubi. Ecco, qua c'è da parte di Dio proprio la rinuncia, soprattutto secondo un'esegesi sia ebraica che patristica, la rinuncia ad ogni atto di violenza dopo aver constatato che la minaccia, la punizione non hanno fatto altro che peggiorare la situazione. Allora alla fine Dio sembra quasi riporre il suo arco, cioè tutto ciò che esprime lotta, tutto ciò che esprime violenza, tutto ciò che esprime forzatura, per invece adottare una via nuova, che è la via dell'alleanza, la via dell'amore unilaterale da parte di Dio. Tra l'altro è interessante perché quando viene dato il segno dell'arcobaleno, Dio dirà che quel segno è più per lui che per il popolo, è più per lui perché quando lui lo vede possa ricordarsi dell'alleanza e della promessa che ha fatto al popolo di non distruggere più la creazione qualunque cosa succeda. Ecco allora la prima scena, l'introduzione, sottolineare le meraviglie di Dio. Facciamo ora un breve stacco musicale prima di continuare con il discorso dell'Apostolo Paolo e vedere come continua la sua narrazione, cioè dopo aver fatto memoria delle opere di Dio, Paolo interviene cercando di narrare qual è l'elemento che sta al cuore della professione di fede che lui propone, la professione di fede in Cristo Gesù. Ma lasciamo un attimo di stacco musicale, dopodiché riprenderemo la lettura. Quindi la prima parte del discorso di Paolo ad Antiochia di Pisidia punta sulle opere di bene compiute da Dio nella storia della salvezza e che culminano nel dono del Salvatore Gesù. Bene, la seconda parte del discorso, quella che viene chiamata con i nomi tecnici di narrazione e argomentazione, praticamente sviluppa questo ultimo dono di Gesù, cercando di capire prima di tutto qual è stata la risposta del popolo e come Dio ha cercato di suscitare ulteriormente questa risposta. Ciò è narrato nei versetti dal 26 al 37 che leggiamo insieme. Fratelli, figli della stirpe di Abraham, e voi che temete Dio, è a noi che è stata mandata questa parola di salvezza. Infatti gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi, misconoscendolo e non comprendendo gli oracoli dei profeti che si leggono ogni sabato, lo hanno condannato e così li hanno adempiuti. E pur non avendo trovato nessun motivo per condannarlo a morte, chiesero a Pilato che fosse ucciso. E quando ebbero adempiuto tutto ciò che era stato scritto di lui, lo calarono del legno e lo misero in un sepolcro. Ma Dio l'ha risuscitato dai morti, ed è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, i quali ora sono suoi testimoni davanti al popolo. E noi vi portiamo il lieto annuncio della promessa fatta ai padri, perché Dio l'ha adempiuta per noi loro figli, facendo risorgere Gesù come è scritto nel Salmo secondo: tu sei il mio figlio, io oggi ti ho generato. Che poi lo abbia fatto risorgere dai morti, così che non ritorni più alla corruzione, lo ha detto affermando: darò a voi le cose sante di Davide, quelle sicure. Per questo in un altro passaggio dice ancora: non permetterai che il tuo santo conosca la corruzione. Davide infatti, dopo aver servito nel suo tempo la volontà di Dio, si addormentò, fu deposto coi suoi padri e conobbe la corruzione. Ma colui che Dio ha risuscitato non ha conosciuto la corruzione. Allora, notate, in questa seconda parte del discorso, quindi prima parte, Paolo sottolinea le opere di Dio nella storia della salvezza che giungono alla pienezza, che giungono al compimento in Gesù, nella seconda parte si sofferma su Gesù, mostrando da un lato quello che ha fatto il popolo, dall'altro quello che ha fatto Dio. Il popolo di fronte al dono massimo di Dio cosa ha fatto? Lo ha condannato, lo ha ucciso, lo ha affisso al legno da cui poi lo ha calato, lo ha messo in un sepolcro. Sono tutti verbi al negativo. Il popolo ha risposto al dono di Dio in modo del tutto negativo, cercando di soffocare il Cristo nel male. Notiamo anche qui il valore numerico è forte, i quattro verbi sembrano quasi rappresentare un po' la totalità di tutti i verbi che sembrano soffocare il dono benefico fatto da Dio al mondo in Cristo Gesù. Di fronte a queste quattro azioni negative che sembrano schiacciare il bene, succede che Dio fa esplodere il male, lasciando che il bene torni a germogliare. E come? Con l'azione della risurrezione. Dice il testo: ma Dio lo ha risuscitato dai morti, ed è come un ritornello di questi versetti. Pensate, come quattro volte viene menzionata un'azione negativa: lo hanno condannato, lo hanno ucciso, lo hanno calato del legno, lo hanno messo in un sepolcro, per quattro volte viene sottolineato che Dio lo ha risuscitato. Al versetto 30, al versetto 33, al versetto 34 e al versetto 37. Per quattro volte viene ribadito: Dio lo ha risuscitato, Dio lo ha risuscitato, Dio lo ha risuscitato. E con questa forza di risurrezione, praticamente i verbi al negativo vengono totalmente mandati in tilt. L'azione, la risposta negativa umana viene vinta dalla risposta positiva di Dio. Una risposta che poi porta anche dei segni concreti, perché la risurrezione di Gesù è comprovata prima di tutto da un fatto relazionale umano, cioè ci sono delle persone che lo hanno visto. Dice il testo: è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme. Quindi la testimonianza vivente della risurrezione sono gli apostoli intesi come uomini e donne che sono saliti con lui a Gerusalemme, uomini e donne. Luca tiene a sottolineare il discepolato femminile che è salito con lui dalla Galilea a Gerusalemme. Seconda cosa, seconda prova della risurrezione di Gesù è nelle scritture e anche qui l'autore sacro cita tre passi biblici, tutti e tre attinti al Salterio, per sottolineare che quanto sta annunciando non è campato in aria, i segni erano già evidenti all'interno della scrittura. E poi, terzo elemento, è la sottolineatura della grande diversità che esiste tra Davide e Gesù. Notiamo qui un aspetto che emerge anche nel primo discorso di Pietro. Nel primo discorso Pietro aveva sottolineato anche lui la differenza tra Davide e Gesù, dicendo che mentre Davide era rimasto esposto alla corruzione e il sepolcro ne era la prova, tra l'altro probabilmente al tempo in cui l'autore sacro scriveva, il sepolcro del re Davide era proprio a Gerusalemme, nel caso invece di Paolo viene sottolineato che la diversità tra Gesù e Davide sta proprio nell'elemento corruzione. Davide ha subito la corruzione della morte, Gesù invece non ha subito la corruzione della morte, perché Dio è intervenuto prima che questo accadesse. Quindi l'elemento forte che viene sottolineato nell'argomentazione di Paolo nella seconda parte quindi del discorso è l'elemento chiave della risurrezione di Gesù, una risurrezione operata da Dio nel momento in cui tutta la realtà sembrava rifiutare la figura di Gesù. Quindi notate ancora una volta come si snoda il primo annuncio di Paolo in un contesto misto dove ci sono ebrei e dove ci sono pagani. Prima di tutto viene esaltata l'azione benevola di Dio, quindi i sette verbi che sfociano nel dono di bene di Gesù. In un secondo momento viene messo il cuore a tutte le azioni benevole di Dio, il cuore, il centro, l'elemento a cui portare l'attenzione è il fatto che Dio ha risuscitato Gesù. Se quindi in Gesù c'è la vitalità stessa di Dio, Gesù è il Messia, cioè l'azione forte, il messaggio forte che viene lanciato dall'Apostolo è questo, e su questo non c'è azione negativa che tenga, perché sia la condanna, sia l'uccisione, sia la chiusura in un sepolcro dopo essere calato dalla croce, non hanno forza di soffocare la forza di bene che caratterizza Gesù. Ora capite bene che con questa proposta l'antico credo ebraico cade in briciole, perché l'antico credo ebraico puntava su elementi forti come l'elezione del popolo, il tempio come luogo unico di riferimento, l'osservanza della legge. Ora, praticamente l'Apostolo sta mettendo al centro di tutto, prima di tutto non un luogo o un popolo, ma una persona, la persona di Cristo, che Dio ha risuscitato. Questa persona viene risuscitata e vive questa esperienza dopo una condanna alla maledizione, perché la condanna della croce era una condanna alla maledizione. Bene, in questo contesto, che sembra essere un contesto di maledizione, fiorisce il bene. E non solo, il luogo sacro non è più il tempio, ma diventa, un'esperienza di risurrezione che viene vissuta al di fuori del Tempio, addirittura al di fuori delle mura di Gerusalemme, in uno spazio consacrato, quasi a dire che l'azione di Dio abbraccia tutto l'universo. Ancora una volta però, per capire tutto questo, è importante l'ausilio della scrittura. Ecco allora quelle tre citazioni dei Salmi che ricordano al lettore quanto la Bibbia vada sempre letta nella sua globalità. Chi sa leggere l'Antico Testamento alla luce del Nuovo coglie delle prospettive nuove, come chi sa leggere il Nuovo Testamento alla luce dell'Antico. C'è una sorta di legame fondamentale tra i due testamenti, senza questo legame sarebbe difficile come dire, fare una interpretazione corretta della scrittura. Bene, quindi la seconda parte del discorso punta palesemente sul discorso della risurrezione di Gesù. Allora lasciamo un altro breve stacco musicale in modo che anche voi lettori possiate ripercorrere questi versetti, per poi passare alla perorazione finale dell'Apostolo Paolo, cioè alla sintesi, e infine anche alla reazione di quelli che sono presenti. Ma lasciamo appunto questo breve stacco musicale, dopodiché riprenderemo la nostra lettura. Quindi stiamo percorrendo questo nostro primo discorso dell'Apostolo Paolo negli Atti degli Apostoli al capitolo 13 e abbiamo visto se nella prima parte Paolo sottolinea le azioni di bene di Dio nella storia della salvezza, nella seconda parte punta il centro, il cuore sulla risurrezione di Gesù, adesso vediamo qual è la perorazione finale, cosa Paolo vuole veramente sottolineare e la reazione di chi ascolta. Sono i versetti che vanno dal 38 fino alla fine del capitolo 13, li leggiamo. Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo suo a voi è annunciato il perdono dei peccati. Da tutto ciò di cui non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè, per mezzo suo, chiunque crede è giustificato. Guardate perciò che non s'avveri per voi la parola dei profeti. Guardate, o spregiatori, stupitevi e allibite, perché ai vostri giorni farò un'opera tale che non ci credereste se ve la raccontassero. Mentre uscivano, li pregavano di parlare loro di questo argomento anche il sabato successivo. Scioltasi l'adunanza, molti dei giudei e dei proseliti credenti in Dio accompagnarono Paolo e Barnaba, i quali, continuando a parlare loro, li persuasero a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando videro quella moltitudine, i giudei furono pieni di gelosia e contraddicevano le affermazioni di Paolo, bestemmiando. Allora Paolo e Barnaba dichiararono con franchezza: era necessario che fosse annunziata a voi per primi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi considerate degni della vita eterna, anche noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: ti ho posto come luce per le genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra. Nell'udire ciò i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna abbracciarono la fede. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione, ma i giudei sobillarono le donne credenti di alto rango e i notabili della città, suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dai piedi, andarono a Iconio, mentre i discepoli erano colmi di gioia e di Spirito Santo. Ecco. Notiamo che in questa terza parte del racconto Paolo fa capire in modo molto chiaro qual è l'elemento che gli sta a cuore. Vi sia dunque noto, fratelli, quindi l'elemento è qui, che per mezzo suo a voi è annunciato il perdono dei peccati. Tutto quello che è l'azione di bene di Dio nella storia della salvezza, che trova il suo culmine nella risurrezione di Gesù, ha senso solo se porta a una trasfigurazione della vita personale. Quel perdono dei peccati è la trasfigurazione della vita personale, quello che la legge di Mosè, stando alle parole di Paolo, non è riuscita a ottenere. Qui c'è proprio un capovolgimento di quella che è la proposta che viene fatta ai credenti. Paolo sottolinea che la proposta che viene dalla legge è una proposta, come dire, esortativa, imitativa. Colui che segue la legge deve cercare di fare quello che la legge gli dice o quello che la legge gli proibisce. In questo caso ovviamente non lo fa. Ciò che viene proibito non viene fatto, ciò che viene prescritto viene fatto. Nel caso di Gesù, del rapporto con Gesù, è tutta un'altra cosa. Gesù vuole entrare nella vita dei credenti per vivere nel loro cuore, parlare attraverso le loro parole, agire nei loro gesti. È la trasfigurazione della vita credente. E questa è la cosa che il Padre fa, che nessuno crederebbe se la raccontassero, diceva il testo, no? Citando anche qui un passaggio dell'Antico Testamento. Bene, di fronte a questa perorazione, che chiede in altre parole a chi ascolta di lasciarsi trasfigurare dalla presenza di Cristo nel proprio cuore, qual è la reazione? La reazione, l'abbiamo ascoltata, è di due tipi. Da un lato ci sono quelli che aderiscono a Paolo e mostrano grande entusiasmo, al punto tale che quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola del Signore. Sembra quasi di essere all'inizio del discorso della montagna. Provate ad andare a vedere come viene descritto l'inizio del discorso della montagna nel Vangelo di Matteo, ad esempio. Viene sottolineato che tutti accorrono a Gesù, quasi tutta la città è radunata davanti alla porta, e quindi c'è un'espressione che indica un successo massimo, però subito dopo questo successo si trasforma in persecuzione. È interessante che le frasi che in questo brano descrivono il successo da parte di Paolo e con lui da parte di Barnaba, sono tutte frasi che richiamano l'inizio del ministero pubblico di Gesù nel Vangelo. È come se con questo grande discorso Paolo stia per iniziare una nuova pagina del Vangelo, che subito dopo si evidenzierà. La nuova pagina che sta per iniziare è la pagina dell'annuncio del Vangelo alle genti. Il fatto che il Vangelo venga proclamato alle genti è non solo un elemento legato alla volontà di Dio, ma è un grande salto, un grande passaggio nella storia della missione della prima comunità cristiana. Non dimentichiamo quanto è successo poco prima di questo discorso. Il parente di Barnaba, Giovanni Paolo Marco, identificato poi con l'evangelista del secondo Vangelo, batté in ritirata. Ora invece ad Antiochia di Pisidia, dopo il momento del racconto con la narrazione iniziale, l'argomentazione, la perorazione, tutto va nella direzione di portare al cuore del discorso il fedele, cioè il fedele è chiamato al discepolato massimo, un discepolato che ha l'apertura agli orizzonti del mondo pagano. Ovviamente da un lato dicevamo c'è l'accoglienza, dall'altro il rifiuto. Il rifiuto è fatto al punto tale che i giudei sobillano le donne credenti di alto rango e i notabili della città, suscitando una persecuzione contro Paolo e Barnaba, e li cacciarono dal loro territorio. La reazione è esplicita: scossa la polvere contro i piedi, andarono a Iconio, mentre i discepoli erano colmi di gioia e di Spirito Santo. Qua tornano le caratteristiche dell'autentico discepolo e dell'autentica missione. Quali sono le caratteristiche dell'autentico discepolo e dell'autentica missione? La prima caratteristica è la gioia. Il fatto che i discepoli fossero colmi di gioia e di Spirito Santo è la prova che quanto vissuto è qualcosa di autentico. Quando viene a mancare la gioia, quando viene a mancare la vitalità, la vivacità, i colori, se vogliamo dire, dello Spirito Santo, qualcosa di fondamentale è stato spezzato e quindi il discepolato in qualche modo ne può risultare compromesso. Dall'altro canto, l'altro elemento che dice il passaggio autentico di Dio è il fatto che sostanzialmente vera protagonista qui è la parola, è lei che si diffonde, è lei che suscita la glorificazione di Dio, è lei che raggiunge regione per regione, e tutto questo grazie all'azione dei missionari. Bene, dopo aver percorso questi versetti, avete visto che, avete ascoltato più che altro che questa sera abbiamo preso in esame proprio tutto il discorso di Paolo, anche se pur succintamente. Cosa possiamo attingere per la nostra vita quotidiana. Prima di tutto penso che possiamo attingere il modo, la metodologia per parlare di Dio al mondo. La metodologia per parlare di Dio al mondo è la stessa adottata da Paolo: far leva sulle sue azioni di bene. A volte c'è bisogno proprio che risplendano queste opere di bene in un contesto che rincorre le notizie negative, anche solo per far scalpore, anche solo per far audience. Il discepolo di Gesù è un discepolo che evidenzia la trama nascosta che Dio tesse nella storia e ne fa motivo di gioia.